siamo state convocate anche noi. Assolutamente. Grazie mille, grazie. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dopo 29 anni il Napoli sbanca a Torino, scrivendo una splendida tesi di laurea sul tema scudetto. Trascinata dalla strepitosa coppia Bagni-Maradona, la squadra partenopea vince il primo match spareggio del campionato, contro una Juventus troppo oberata di tossine e acciacchi per rendere all'altezza del blasone. I due punti in palio oggi al comunale di Torino tra Juventus e Napoli erano decisamente importanti, sia pure per motivi diversi, per entrambe le squadre. Ha vinto per 3-1 la compagine juventina ed il risultato è specchio fedele della gara che ha visto la formazione bianconera superare gli avversari nel ritmo, nella manovra difensiva e nel tono atletico complessivo. Straziamola signora, avanti così dato, in area di rigore, troppo dietro, Hamsik, il destro della rete, seconda la rete, Napoli vantaggio, Napoli 3, Juventus 2, vogliamo morire qui, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino, con questo Napoli, grande Napoli, Hamsik abbracciato da tutti i tifosi azzurri, Hamsik, Marechiaro, doppietta di Marechiaro, e il Napoli è in vantaggio, questo ragazzo è un patrimonio dell'UNESCO. Vidal dentro a cercare Pogba, va Paul, Pogba il tiro e la palla in rete, il terzo gol della Juventus con Paul Pogba, perché questo è un fenomeno, al minuto numero 35, Juventus 3, Napoli 0, un gol straordinario di Pogba. Siamo alla Marcord, Pierluigi Pardo, stagione 80, bene, stagione 86-87, 87-88, scudetto del Napoli, scudetto della Juventus, l'ultima volta del Napoli a Torino, Marechiaro, seppellitemi qua, 2009 e poi Pogba 2013 quando la Juve vinse quella partita. Mancano 78 ore e mezza, non ne posso più. Mi sa che sabato sera Sanremo non me lo leva nessuno. Caro mio. Grande serenità. Grande voglia e anche grande voglia di Sanremo. Farò un tifo sfrenato per Enrico Ruggeri, naturalmente. Certo, tra l'altro grande canzone. Devo dire che un po' di tifo c'era così a prescindere, c'era, perché gli si vuole bene, ma anche la canzone è bella rock, molto rock. Molto rock. Chissà se ci sono i tifosi contro nel Festival di Sanremo. Non lo escludo, è una competizione, quindi insomma. No, qui noi siamo persi tra ricordi, Amarcord, mille fronti che si aprono, duelli che si creano, Di Bara contro Higuain, Sarri contro Allegri, Toscani contro e gli arbitri e tifosi più o meno illustri che si azzuffano gli uni contro gli altri. Cosa ci manca? Ma niente, dai, speriamo che sia un pallone. Solo una grande partita, è chiaro che c'è grande incertezza. È una partita che arriva comunque a 13 dalla fine, quindi insomma, diciamo, non è la partita che decide il campionato, però potrebbe dare un indirizzo, più che altro un indirizzo psicologico, poi penso, perché ripeto, l'unico risultato che potrebbe un po' sparigliare chiaramente la vittoria del Napoli, che potrebbe a quel punto dare un vantaggio vero dal punto di vista numerico. Il resto, gli altri due risultati, chiaramente sarebbero, dal punto di vista aritmetico, terrebbero tutto molto molto in equilibrio. È chiaro che se la Juve riuscisse a vincere, passasse in testa alla classifica, ci sarebbe un doppio effetto numerico e soprattutto psicologico. Anche se spesso nello sport succede, non solo nel calcio, anche ad esempio nel ciclismo, che dopo una lunga rimonta arrivi davanti, tiri un po' il fiato, quindi anche questo, guarda, secondo me non ha del tutto torto. Poi lo sentiamo anche Buffon che dice: ma tutto sommato un pareggino male non ci farebbe, noi stiamo lì dietro a rincorrere e possiamo logorarli. Invece, altro fronte, quello italo-inglese, Allegri al Chelsea, cosa ha detto? What's your name? Cosa rispondi? No, allora, innanzitutto, cosa devo dire? Di qualcosa in no, inglese. No, ma... no, perché sennò altrimenti qualcuno... E magari studio l'inglese per me stesso. Però detto questo, cioè, cosa devo dire? Allora, innanzitutto, così almeno tendo a chiarire definitivamente, non c'è niente di vero su quello che viene detto e viene scritto. Non posso né smentire né confermare una cosa che non esiste. Non smentisco né confermo. Questa l'ho già sentita. No, ma il... Innanzitutto c'è da dire che Allegri ieri sera è venuto a Milano per una manifestazione benefica e questo secondo me racconta molto dell'uomo, uh-huh. E perché da Milano Torino è un'ora di macchina, però insomma comunque è un segno di grande disponibilità, disponibilità e sensibilità, certo. E anche di equilibrio, che poi è secondo me parte del suo successo da allenatore, no? Esatto. Stiamo parlando di un uomo, l'abbiamo detto mille volte, io sono particolarmente... ben disposto nei suoi confronti, cioè, mi piace molto anche proprio per questa sua serenità nel vivere gli eventi sportivi e l'adrenalina. E detto questo, non conferma, non smentisce, la verità è che Allegri ha mercato. Beh, Allegri, ci mancherebbe altro, ha moltissimo Luigi. Mercato, è un allenatore che è arrivato in finale di Champions League l'anno scorso, adesso rileggo quel tweet, ha perso a testa altissima, quindi ha fatto una figura enorme nei confronti del mondo del calcio internazionale. Sta continuando a fare molto bene, ha un'idea di calcio che è un'idea europea, nel senso che gioca un calcio anche bello. Molto bravo a gestire anche i giocatori, a gestire anche rose ampie, come è un requisito tra i più richiesti quando va ad allenare una grande squadra. Intanto Mourinho dicono sia vicinissimo al Manchester United. Anche lui lo dice. Anche, che poi anche il Daily Mail mi pare che quello che riportava la notizia a prima pagina cita proprio la fonte diretta, cioè lui avrebbe detto agli amici che vado allo United. Vado. E comunque insomma non mi sorprende che Allegri possa piacere al Chelsea, mi sembra che sia tutto assolutamente nella logica. Sì. Ci fermiamo un istante per il traffico, vi aspettiamo, 800 24 00 24, c'è un ascoltatore che scrive: Ruggeri è interista, quindi arriverà quinto o sesto, te capì, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma il Napoli a contattarsi un pareggio non ho idea, perché non vivo lo spogliatoio, non conosco le loro ambizioni e non so che tipo di approccio generi giocare contro la Juventus nel nostro stadio. Sicuramente tutte e due le squadre, secondo me, proveranno a vincere la gara, però insomma alla fine credo che anche per noi l'importante sia soprattutto non perdere. Questo Gigi Buffon secondo me in parte è anche condivisibile, non è un ragionamento sbagliato, è molto onesto, perché è un ragionamento che diciamo si oppone al classico noi scendiamo in campo sempre per vincere, è un ragionamento di grande onestà, ma del resto Buffon sappiamo che da questo punto di vista non è veramente secondo a nessuno, e qualche volta addirittura qualche pseudo gaffe l'ha fatta proprio per troppa sincerità. Certo. Qui però secondo me è stato dire anche il potere logora chi ce l'ha, noi possiamo anche stare lì dietro acquadati e vederli cuocere, potrebbe essere anche una soluzione. No, ma ha ragione secondo me, cioè è chiaro che quando sei a più 2 o a meno 2 a 13 giornate dalla fine c'è un solo risultato che, come detto prima, che spariglia, c'è un solo risultato che darebbe un allungo molto molto importante. Gli altri due risultati sono grossomodo lasciano tutto come simili. Sì, lasciano tutto non proprio ovviamente, meglio stare a più uno che a meno due, questo non c'è dubbio. Però insomma la Juve, che ha una grande forza, una grande abitudine storicamente nelle 38 partite, certo. Secondo me può anche ragionare come dice Buffon. Detto questo, senti, per me scenderanno in campo tutte e due per vincere. Saluto con tutti gli onori del caso uno dei tuoi grandi attaccanti a Tiki-Taka, Giampiero Mughini, buongiorno. Eccoci, carissimo. Come va? Chi sarebbe? Paragonami Mughini a un attaccante. Mughini è un talento purissimo, quindi... Dybala. Sì, un Van Basten. Però facciamoglielo scegliere a lui. Scegli chi c'è nel tuo Pantheon. Chi vorresti essere? Non sono così spaccone da fare questi raffronti. Vabbè, dai, non so, Totò Schillaci. Io sono Mughini e mi basta e mi strabasta. Vabbè, senti, Giampiero, significati antropologici, sociologici, politici, politico-sportivi, rivincite. Assolutamente, manca... questo è uno dei miei principi, naturalmente, che la gara sarà, io me la immagino bella, leale, e vincerà il migliore. Chi sia in questo momento il migliore è difficile dire, forse non c'è davvero un migliore, sono due squadre che in questo momento stanno irradiando il torneo, non c'è dubbio quello che dice Gigi, se noi dovessimo perdere sarebbe una botta da una botta in ogni senso, i punti che diventerebbero 5, che non sono pochi, e poi il senso della cosa. Il senso della cosa significa che questo Napoli Napoli è già forte di suo, ma dopo una vittoria a Torino, anche se oggi il fattore campo nel gioco di oggi non conta come una volta, dato che le squadre sono aggressive sia quando giocano in casa che quando giocano fuori casa, è un altro calcio rispetto a quello di 20 o 30 anni fa, un altro sport. Cioè che mi scrive... E cosa volete che vi dica? Il Napoli oltretutto ha il vantaggio di poter utilizzare due risultati su tre, scopro l'America, e quindi una partita per noi difficilissima. C'è cioè chi scrive Mughini uguale a Platini via WhatsApp. Beh, dai, ragazzi, ragazzi, non mi fate arrossire. Non mi fate ha scritto un ascoltatore. Sì, però l'importante, Pierluigi, è non iniettare altro veleno, mi pare. Ma questo su questo, credo che parlando con me questo rischio non lo corriate. Io, il veleno e lo sport sono due cose antitetiche. Il veleno, lo sport vuol dire due che si affrontano, due rivali. La bellezza è nel fatto che ci sono due rivali, entrambi meritano tutto, ma talvolta non tutti e due hanno tutto, ed è assolutamente ovvio che io non spenderò una sola parola per fare i miei complimenti a tutto il Napoli, al Napoli squadra, al Napoli società che ha saputo scegliere un allenatore giudicato da qualcun altro poco chic. Sì. Io trovo chicchissimo Sarri in tuta, che volete che vi dica, non posso aggiungere altro. No, fra l'altro arriviamo a questa partita nelle migliori condizioni possibili, nel senso che arriviamo dopo un campionato che lo dicevamo in qualche modo anche ieri, e l'abbiamo detto anche lunedì sera a un certo punto, di fronte a una serie di suggestioni poco gradevoli, ma insomma arriviamo a questa partita nelle migliori condizioni possibili. Questo è un campionato fin qui libero dal sospetto, libero dai veleni. Ma un campionato sai, nel quale Pierluigi, i sospetti come tu li chiami di solito nel corso di un campionato. Poi, sai, a meno che uno non abbia la patologia, abbia un morbo, e ci sono dei morbi in Italia in questo senso molto diffusi, non c'è dubbio che il morbo antiviventino, perdonatemi, è una malattia rispetto alla quale l'influenza stagionale fa ridere, perché appunto l'influenza è solo di una stagione, mentre invece l'antiviventinità è di tutte le stagioni. Io non ricordo campionati Ergol de Turone, il guardaline fischiò il fuorigioco e nessun giocatore protestò. Scusate se porto acqua al mio mulino. Comunque quest'anno non abbiamo avuto niente da ridire su nessuno. No, perché esatto, gli sbagli quindi... ci sono nella scorsa partita hanno espulso un giocatore l'un per l'altro, ma certo. Sono sbagli che fanno sì, parte sono sbagli, sono della sbagli vita, random. Della professione, come quando io e te Pierluigi diciamo qualche sciocchezza, a te non capita mai. A me capita un sacco di volte. No, devo dire che fra l'altro in questo clima di felicità, io penso che queste due squadre siano fra le prime otto d'Europa. Cioè, a me sembra di poter dire abbastanza serenamente, la Juve ha giocato due volte contro il Manchester City, poi ha buttato via il primo posto nel girone, ma secondo me ha dimostrato in quel girone lì di essere assolutamente all'altezza, anche superiore nelle partite, negli scontri diretti contro il City. Il Napoli, lo dice la classifica e lo dice anche quello che ha fatto in Europa, in Europa League, secondo me queste due squadre sono fra le prime otto d'Europa. Beh, non è difficile pensarlo, le prime otto. Naturalmente, come tu sai, il problema è confrontarsi a paro con quelle lì, le tre o quattro. Certo. Le tre o quattro sono. Però l'anno scorso di fatto è successo. L'anno scorso è successo, è stata una partita giocata a paro, non c'è dubbio. Giampiero, ma tu sei contrario anche ad un sano gufismo? Cioè, io non sono senza, assolutamente contrario. Senza... La domanda è rivolta a me? Sì, penso che il gufismo sia miserevole come atteggiamento mentale, miserevole per uno che ha amato e fatto lo sport. Non so, io facevo la ginnastica agli attrezzi, che è uno sport molto duro. Cosa avrei dovuto augurarmi? Che uno dei miei rivali in gara si facesse del male? Avrei dovuto augurarmi questo? No, certamente. Assolutamente. Diciamo che, Ma cosa vuol dire gufare? Vuol dire augurarsi che all'avversario vadano tutte storte? Ma insomma è penoso. Ma cosa vuol dire? Ma quando io sento nello stadio che fischiano i giocatori avversari quando hanno la palla, ma cosa intendono fare? Vorrebbero scoraggiarli, vorrebbero che loro la palla la buttassero via, si arrendessero. Ecco, vorrebbero che gli avversari si arrendessero. E dove sarebbe il bello dello sport? Ma non so, non capisco. Io ho questa belluinità, la belluinità c'è in tutti gli aspetti della vita, della società. Il Parlamento italiano offre ogni giorno spettacoli orrendi di belluinità. Quindi figurati su uno stadio. Certamente. Però perché dice? Certamente. Che la bellezza dello sport è quella, io contro di te sino all'ultimo. Certamente, certamente. Un'ultima cosa, la chiedo a tutte e due. Juventus spaventosa, secondo me, nel correre su quel filo a tutta velocità, perché altrimenti non rimontavi più. Però a me ha sorpreso, forse ancora di più, la solidità mentale del Napoli, che è riuscito a non mollare, a tenere giù la testa. Non c'è dubbio. La Juventus, oltretutto, come tutti sappiamo, è abituata a dare molto. E il Napoli, insomma, il primato era una cosa nuova per questi ultimi anni. È un primato con una squadra poderosa che ti insegue, che ti bracca. E loro non hanno battuto ciglio. Esatto. Entrano in campo e immediatamente si scaraventa in avanti quell'orchestra offensiva, e loro hanno indubbiamente l'orchestra offensiva migliore d'Italia, perché quando vanno in attacco eccetera hanno tra i 4 e i 5 giocatori che in attacco possono avere la giocata super. Particolarmente d'accordo. Grazie Giampiero. Ciao Giampiero. Ciao. Signori, alla prossima. Grazie Giampiero Mughini. Ci vediamo lunedì. Sì, in effetti si diventa quasi banali, nel senso che poi alla fine, ed è poi questo che spiega la grandezza di questa partita, non ci sono segnali, non ci sono tendenze. Due squadre perfette, insomma, siamo qui a conteggiare le vittorie in fila, 14 da una parte, 8 dall'altra, ma il Napoli aveva reagito alla brutta partenza con qualche giornata d'anticipo rispetto alla Juve, quindi stiamo parlando di due storie veramente perfette e soltanto lo scontro diretto può provare a chiarire qualcosa. Pier, io continuo a pensare che sarà una meravigliosa montagna, sarà un mortirolo ma piazzato, non ti dico a metà giro, però diciamo a metà della penultima settimana. Non la vedo come una montagna decisiva, ma questo in nessun caso. Manca troppo tempo, troppe partite, troppi punti a disposizione, troppa anche necessità di energia emotiva per continuare a reggere questo confronto. Ci fermiamo per la borsa, poi già diversi ascoltatori in linea, guarda caso, Giuseppe, Giorgio e molti altri, all'800240024, numero verde. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia! Tutti convocati. Luigi, ci siamo. Mi senti? Sì. C'è Giuseppe da Padova. Vai, dai. Grande, grande, grande ragazzi. Carlo, sono quello del podcast che corre di notte, di mattina presto e vi ascolta sempre. Bravo, bravo. È un piacere, è un piacere. Oggi, oggi non sei andato a correre. No, ieri vi ho ascoltato quello di lunedì. Ieri quello di lunedì. Ah, capisco. Ieri ah, non sei sempre ritardo, cioè devo ritardo il satellite, stai sì, un giorno. Sì, devo dirti la verità, più Luigi, ti ho chiamato ieri mentre correvo, ma erano le 9 di sera, ma non avete risposto. Sì. Domenica c'è, c'è Napoli Carpi, Frosinone Juve, lo sai, no? esattamente, beh, lo scontro è tra due settimane, giusto? Per me giusto, vincono, esatto, vincono tutte e due, però non facilmente. Questo è il nostro pronostico. Fenomeno, sei grande, grande. Allora, ascoltate, una riflessione. E io sono stra Allegri da sempre, come sono stato per Conte, ma lo sono altrettanto per Allegri, perché ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. E ho la netta sensazione che forse per la prima volta, in maniera più evidenziata di tutte le altre occasioni, le parole di Buffon se ne sono una conferma, la Juve, la mia Juve, tenderà a scendere in campo cercando di portare a casa il peggior male. Dice, facciamo sto pareggio, che il discorso che facevate voi prima, 5 punti sono una qualcosa di diverso che restare a meno 5, due. Che attenzione, come sottolinea giustamente un ascoltatore, si potrebbero leggere anche 6 per via dei confronti diretti. Certo. Bene, un desiderio che io ho da juventino. Se il Napoli viene a Torino, e il Napoli bisogna portargli rispetto perché è una grandissima squadra con dei grandissimi giocatori, e un paio di giocatori glieli porterei via subito, proprio tiki-taka. La verità è che se avessimo in campo con i tre in difesa e con Alexandre Quadrado, poi a centrocampo e davanti mettici chi vuoi, ma i tre in difesa, ma anche con un Listeiner centro-destra, oppure giocare i Rugani con Bonucci e Barzagli, ma Alexandre Quadrado sulla nostra sinistra, io penso che anche il Napoli assumerebbe forse una certezza leggermente più inferiore. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, io sono convinto di questo. Il fatto che invece io vado in campo con una difesa a 4, con a 5 addirittura, con a 4, scusami, con Evra a sinistra, a destra gli Steiner, con Bonucci e Barzagli in mezzo che mi danno una certa copertura e magari metto Pereira dietro le punte e faccio un centrocampo con gli uomini di valore che ho, ho la paura che dico, boh, vado in campo, faccio questo pareggio e vado, e vado avanti nel mio campionato. Quindi tu saresti per la prima che hai detto? Io sarei con Alexandre Quadrado, perché Alexandre Quadrado ti danno quella profondità, quell'inventiva, quella tecnica, quella velocità che anche Caio e anche Insigne, che comunque sono due giocatori che creeranno. Secondo me sarà una chiave di lettura anche per capire con quale atteggiamento la Juventus scenderà in campo. No, sì, Luigi? Io penso che l'equilibrio sia fondamentale, a maggior ragione alla luce del ragionamento, secondo me, condivisibile che ha fatto Buffon e che ha fatto anche l'ascoltatore, anche se non penso che la Juve scenderà in campo per pareggiare, proprio non ce l'ha come mentalità il Napoli e non ce l'ha come mentalità la Juve, quindi io penso che proveranno tutte e due a dimostrare di essere più forti, proprio perché questa partita arriva fra due squadre che sono praticamente perfette fino a questo momento, quindi io da questo punto di vista non ho grandi dubbi. Detto questo, l'equilibrio è importante nel calcio, ed è importante a maggior ragione proprio perché l'unico risultato che spariglia potrebbe essere la vittoria del Napoli, proprio alla luce del ragionamento di Buffon. Se l'importante è tenere comunque a portata, a distanza il Napoli e non perdere, e l'equilibrio secondo me è un fattore che diventa ancora più importante. Io mi aspetto la difesa a 3, sinceramente. Penso che Rugani abbia dato garanzie significative in questo periodo. Mi aspetto Lichtsteiner a destra sicuramente, e magari a sinistra sia Alexandro per poter spingere un po' di più. E poi le due punte, insomma, credo che sia la soluzione migliore, soluzione preferibile, dici? Più razionale. Secondo me è la soluzione più razionale. Poi chiaramente Allegri ha la situazione sotto controllo. Quando Allegri si è messo a scegliere Mandžukić, cioè, tutti volevano Morata, ha dimostrato di aver ragione. Se fossi Juventino mi fiderei ciecamente di lui in questo momento. Giorgio da Roma. Buongiorno e grazie per avermi accettato. Io volevo fare una considerazione sulla diciamo violenza. È iniziata è un campionato che si trova adesso con due squadre che non hanno avuto problemi di nessun genere, io mi riferisco ai torti arbitrali o favori che siano. Tutto fila liscio, Però guarda caso, la settimana scorsa è iniziato il Corriere dello Sport, vogliono rovinare Juve-Napoli, riferendosi al non accettazione dei tifosi dei napoletani. Però quando è successo la stessa cosa anche a Napoli all'andata, uno. Poi ci si è messa quella professoressa napoletana che voi sapete di che cosa abbia detto in agenda alle selle e quello che è. Poi Liguori, poi l'altro giornalista napoletano. Allora, a questo punto probabilmente mezza Italia, non juventina, non aspetta altro che ci sia un favore, qualcosa di sì, a favore della Juventus, per poter strillare al 4 c'è questo a 4 rischio. Esti. C'è allora, questo rischio. Una volta tanto che si arriva a una situazione normale, ci deve essere sempre qualche imbecille che deve portare all'estremo. Sì, che deve iniettare, che si inietta veleno dentro a questa partita, è il caso di evitarlo da parte di tutti, e punto, non credo ci sia altro da aggiungere, perché non ci sono i presupposti per iniettare. No, d'accordo, non ci sono, secondo me è una cosa che non va fatta in assoluto e non va fatta nello specifico di questa situazione, proprio perché ma è quello che ho detto anche l'altra sera. Perché se c'è un arbitro che dà garanzie, ce l'abbiamo qui in Italia e dà pienissime garanzie. E se c'è un campionato tranquillo, veramente scevro, bello scevro, grande qualità. Scevro anche Taveri scevro com'è bello. Da veleni fino a questo momento è il campionato che stiamo vivendo. Quindi ci sono veramente tutti i presupposti perché questa possa essere una sorta di finale anticipata fra due grandissime squadre, che si possa arrivare a questa sfida in maniera serena, e quindi anche a me dà fastidio che ci sia chi vuole avvelenare il clima, che ci sia chi vuole iniettare veleno dentro a quel pallone. Saluto e ringrazio un grande come Gianni Di Marzio. E là, grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Come stai, amico mio? Tutto bene? Bene, Pierluigi, la tua voce è inconfondibile, quindi ti ho beccato subito. Gianluca dov'è? Che fa? Gianluca è in giro per il mondo anche lui, come te, sempre. Ma vacanza, uno zingaro. È finito il mercato. Sì, insomma, senti, magari. Mi racconti di quando sei andato a trovare Maradona la prima volta? Ma era nel 78, quindi c'era cambiato il mondo, io andai lì per il Napoli. Allora allenavo il Napoli, quindi andai per vedere se c'era qualche straniero che poteva fare al caso nostro. E invece capitai che dall'albergo a un ristorante, capitai in un taxi dove un tassista tifosissimo, parlando di calcio, di giovani più bravi, mi fece il nome di questo Maradona che poteva essere secondo lui il vero crack, e che Menotti nella lista dei 40 però non l'aveva convocato nei 22. Pertanto questo mi incuriosì moltissimo, combinazione: il presidente della polisportiva calcio dell'Argentino Junior era un italiano, l'ingegnere Settimio Alovici, che poi divenne agente FIFA, comprò in proprio, se ti ricordi, Battistuta, Sensini, Balbo, eccetera eccetera, e lui mi contattò nell'albergo dove io stavo con Gigi Radice e Giovanni Trapattoni a vedere naturalmente il mondiale. Mi contattò lui, era un calabrese di Aiello Ione, che era un tipo sul Catanzaro, quindi diciamo sostanzialmente mi convinse ad andare a vedere questo ragazzino, che io tra l'altro onestamente non avevo manco tanta voglia di andarlo a vedere. Poi arrivammo a questo campo abbastanza civettuolo, il ragazzo non si era presentato perché era arrabbiato con Menotti che non l'aveva convocato, quindi sostanzialmente devo dire, tra l'altro mi ero portato anche dei colleghi tuoi dietro, tra cui Angelo Pesciaroli, che tu conosci benissimo, certo. Perché allora era il redattore del Corriere dello Sport, quindi mi portai lui, mi portai qualche altro collega tuo per vedere questo presunto fenomeno che non si era presentato al campo. Quindi con il presidente, con Alovisi, andammo a casa sua a cercare di convincerlo a venire, onestamente, che poi era in una zona abbastanza, zona Palermo, era Villa Fiorita, una zona un po' particolare, diciamo come favelas. Però lo convinsi, onestamente non mi piacque a vederlo così, da piccoletti, con i capelli un po' tutti, un po' capellone, un po' grassottello, però lo convinsi a venire a campo, che se giocava bene l'avrei portato in Italia, eccetera, eccetera. Insomma, venne a campo, dopo 10 minuti lo feci uscire, ma l'avessi fatto uscire anche tu, Pierluigi, che calcisticamente sei anche un buon intenditore, per cui lo feci firmare già negli spogliatoi, perché come tu ben sai, Angelo era oltre ad essere un bravissimo giornalista, però aveva una tendenza laziale come simpatia, quindi ero preoccupato che Angelo che facesse sì, la telefonata. Quindi scesi dallo dalla tribuna, andai negli spogliatoi con un'altra scusa che dovevo fare chissà che cosa. Immaginerai, dovevo fare un doping. E quindi con questa scusa lo feci prima un pezzo di carta, così che insieme al presidente, insieme a Settimana Luis, che poi portai in Italia, però. Non, non fu possibile portarlo perché all'epoca il presidente Perlaino i giovani non ne voleva proprio sentire, li puntava sempre sui giocatori di categoria e giocatori famosi. Mi sembra 300 milioni poteva, quindi, arrivare, poteva arrivare a Napoli nel 78 con $270,000. Sì, questo è bello, però devo dire lui si è sempre comportato molto bene, poi l'ho tenuto con me 15 giorni con me in albergo a Don Carlos di Buenos Aires, lo portavo la sera fuori con me, si era anche affezionato, il ragazzo voleva venire, mi accompagnò in aeroporto e si comportò non bene ma di più benissimo, poi purtroppo è rimasto prigioniero un po' della sua notorietà, della sua popolarità e quindi sostanzialmente ha seguito percorsi sbagliati, però sul piano umano e devo dire su quello caratteriale è stato sempre il numero uno in assoluto, una divinità, una vera divinità del calcio. Ma è più forte il Napoli di oggi o quello lì? Oggi mi sembra la squadra più, è vero che pure lì c'è la Maradona, Careca, Carnevale, grandissimi giocatori, però questa mi sembra più una squadra che racconta una forza collettiva, no? Con tutto rispetto ovviamente per Higuaín che è un grandissimo, però quello era il Napoli di Maradona, era il Napoli del singolo, era l'eroe che sovvertiva l'ordine costituito. Questa mi sembra una squadra molto più frutto di progettualità, no? Ma più che di progettualità, perché poi ci sia anche di progettualità, beh, c'è qualche giocatore così sicuramente che sul piano qualitativo non è diciamo da otto, tanto per intenderci, che uno possa proseguire il percorso della pianificazione, tanto per usare un po' i termini pratici aziendalistici. La realtà è che quello era un Napoli di grandissima qualità che poteva vincere in qualsiasi momento. Questo, come dici tu, io uso un altro termine, però traduco a modo mio, è un Napoli di reparto, dove c'è veramente la mano dell'allenatore e chi traduce, diciamo, sostanzialmente questo lavoro, oltre al movimento della linea difensiva alta, oltre al movimento di una linea, delle linee difensive strette, i raddoppi di marcatura, le catene a tre sia a destra che a sinistra, è Higuaín che ha trovato un'annata particolare, quindi un giocatore fantastico che traduce in gol questo grande calcio, sì, che era il calcio che poi Sarri ha già fatto ad Empoli, ma con giocatori non di grandissima qualità come ce li ha adesso. La differenza è quella. Senti, Gianni, ci devo fermare un attimo per il traffico e per salutare Pardo che deve scappare. Ciao, domani alle 2. Ciao, Carlito. Ciao, Pierino. Domani alle 2. Gianni Di Marzio, rimani con noi un attimo. Abbiamo il traffico e poi ti ho un'altra storia da farti raccontare meravigliosa. Tutti convocati. Convocati. Allora, Gianni Di Marzio, l'altro giorno tutti la vogliono sentire questa storia. È stato chiesto a Ranieri: ma il tuo Leicester dei miracoli a chi assomiglia? E lui ha risposto: al Catanzaro di Di Marzio di cui lui era giocatore. E sì, se non ci fosse stato Gianni Di Marzio, forse Ranieri in questo momento sarebbe a fare un altro mestiere, è vero o no? Ma è vero o no, lui onestamente non aveva grande voglia di fare l'allenatore, di avere a che fare con i giocatori, non è che avesse, diciamo, quella grande voglia di incominciare questo nuovo tipo di attività. Sì, perché ripeto, lui è sempre stato molto, molto serio, molto, diciamo, riservato, pertanto non si vedeva in quel ruolo, però uno se riesce un attimino a spingerlo, a convincerlo, a fare, lui sa fare le valutazioni. Che voleva fare nella vita? No, lui voleva fare imprenditore, perché poi il papà a Roma aveva una grossa azienda e quindi lui voleva rientrare a Roma, così. Invece poi questo presidente di una squadra calabrese che mi chiedeva un allenatore, mi convince a cercarlo. Io gli dissi: per me Ranieri, specialmente in Calabria, tra l'altro, oltre che a livello nazionale, era il personaggio giusto per vincere il campionato. Infatti, io convinci Claudio che non voleva andare, eccetera, eccetera. Però, insomma, da allora in poi ha fatto una grande carriera, perché da allora fece 20 risultati tutti consecutivi. L'anno dopo andò a Campania Puteolana e fece bene, poi l'anno dopo io ero molto amico la buonanima di Carmine Longo, un direttore sportivo bravissimo, ci incontriamo a Milano in albergo, io gli chiesi che faceva, dove andava, mi sanno io, dai, vado a Cagliari, però purtroppo il Cagliari è fallito, stanno senza giocatori, senza allenatori, gli disse ma scusa prendi Ranieri, no, che bravo, ha dimostrato già che... E così lui prese Ranieri, cominciò a fare la squadra da capo e vinse il campionato, vinse la Coppa Italia, vinse il campionato l'anno dopo dalla B andò a Napoli, Napoli fece benissimo e poi dopo, anche, non dico storia recente, ma insomma ha dimostrato di essere all'altezza, ma più che dei risultati, dei grandi club che ha allenato come Juventus, Napoli, Fiorentina, Inter, Atletico Madrid, Chelsea, Valencia, sì, eccetera, lui al di sopra di tutti questi grandi club si è dimostrato un grandissimo uomo, proprio come rapporti umani con i suoi ex compagni di squadra del Catanzaro, di quella squadra che noi avevamo la fortuna in due anni insieme, un primo anno perdemmo uno spareggio per andare in A a Terni con Verona, poi l'anno dopo facciamo la volata e vincemmo il campionato. Io poi andai ad allenare a Catania, lo portai con me a Catania perché era sostanzialmente il mio capitano, era proprio l'esempio per tutti i compagni di squadra, quindi devo dire che come uomo negli anni... Gianni, secondo te ce la fa a vincere la Premier? Così brutalmente. Lui che non molla mai, lui si arrabbiava quando io durante la settimana facevo un po' le solite partitine dove si cercava di incentivarli con i dolcini, lo champagne, queste solite cose, tanto per sì, caricarli un po' di più. Lui non voleva perdere neppure quelle partitine là, quando io fischiavo un fallo che non c'era, ma lo facevo per innervosirli, per cercare di creare un po' di tensione, e lui si arrabbiava molto, diventava matto, era capace di voler uscire dal campo. Uno proprio che ti immagini. So, tu dici che non molla là davanti, in no, testa alla Premier League. Per me è una accoppiata Leicester-Napoli alla grande, anche però vorrei puntualizzare quel concetto di prima, perché non vorrei che già ho visto sui Twitter, io quel Napoli, il Napoli di oggi, ho detto che qualcuno è un Napoli da reparto con dei grandi giocatori come Higuain, Amasic, voglio dire che so io, lo stesso Jorginho, Allan, ecco, ho detto che ci stanno giocatori che non sono come quelli di prima, di quel Napoli dei Maradona, dei Careca, ecco, degli Alemão, dei Bagni e gli altri, sono giocatori da 8, non da 10, da 10 sono quelli che ho elencato adesso, Insigne, Caillagon, sono giocatori da 10, ci mancherebbe altro, perché dai, bisogna stare attenti anche a centellinare le parole, quindi è bene chiarire. No, questo hai ragione, ma sabato come finisce? Per me Napoli si presenta in eccellente condizione, di condizioni fisiche, atletiche, psicologiche, l'entusiasmo della città alle spalle gli spinge, perché non è quell'entusiasmo che è negativo, sino positivo per la squadra. Sì. C'è quell'allegria, la gente, la città è convinta di questo Napoli, è convinta che gioca bene, è convinta che non sta lì a sacrificarsi quando è in vantaggio 1-0 a mettersi dietro, sì, per portare, sì, a casa, sì, il punticino. No, il Napoli gioca, cerca di fare il secondo gol, il terzo gol, e poi non perde la testa quando non riesce a farlo. Verissimo. Come è successo con il Carpi. Verissimo. Nonostante doveri, ecco, devo dire questo, certo il vantaggio di Napoli è questo, poi c'è lo svantaggio di chi incontra una grande squadra, una squadra che non molla mai, una squadra che è abituata a vincere, una squadra che sono dei cannibali mentalmente, sono nel loro DNA, sono allenati veramente a non mollare niente. Sono allenati ad essere dei cannibali. Sì, per me sì. A sbranarsi, sono dei vampiri della vittoria, questo lo sappiamo. Grazie Gianni, grazie davvero, è stato un piacere, a presto. Ciao Gianni Di Marzi. Tonio da Torino e Francesco della provincia di Siracusa, state lì, non mollate. Dopo il GR torniamo insieme. 800 24 00 24, il numero verde. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. Che dire? Arrieccici. Convocati. Antonio, buongiorno. Come sta? Buongiorno, bene. In giro, in macchina al lavoro. In giro per Torino. In giro per Torino, esattamente. Davanti all'ex Fiat in questo momento. Ah, SCA per la precisione. Conosco bene. Esatto. Dica. Allora, io volevo fare tanto un intervento in merito alla possibile formazione della Juve. Sì. Nel senso che fra tutte le opzioni, una cosa che potrebbe essere interessante. Ed è, mantenendo lo schema col quale sta giocando la Juve adesso, con la difesa a tre. Con la difesa 3 provare a mettere a sinistra, mi piacerebbe vedere a sinistra Evra, che ha, che è piede mancino, che è l'unico fra i disponibili che ha il piede mancino. Sì. Buono di testa, fa bene le diagonali, è intelligente tatticamente, gioca con gli altri da tempo. Per quindi Bonucci, Barzagli e Evra. Esattamente, esattamente. Non è una brutta idea. Eh? Esattamente. Non è una brutta idea. Mi dà idea che comunque potrebbe anche garantire la spinta con Alessandro e lui lì dietro il suo lavoro, tanto ormai nell'ultimo anno per questioni anagrafiche è un giocatore di grande esperienza, ma soprattutto di grande carisma, perché avrà notato anche lei che insieme a Buffon è forse il grillo parlante della Juventus, è un grande leader, verrà. Lo ha dimostrato soprattutto in questa stagione, mai parole a caso e mai cose banali, ma al di là di questo, anche dal punto di vista tattico, secondo me potrebbe essere una soluzione che ci sta, se Allegri, come credo peraltro, non vorrà cambiare un modulo che funziona e proverà a correggere l'assenza di Chiellini, che peraltro starà fuori 20 giorni, quindi non ci sarà nemmeno con il Bayern Monaco, con Evra. È chiaro che la Juventus perderebbe qualcosa in potenza, in stazza, però potrebbe essere una soluzione. Francesco, provincia di Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io intervenivo sulla partita che deve fare la Juve col Bayern, la partita di Champions. Sì. Secondo me, poi può essere che sbaglio, non è che è il Bayern che ha scelto la Juve in questa partita. Casomai viceversa è il contrario, la Juve che ha scelto il Bayern, mi spiego, perché la Juve poteva arrivare benissimo prima nel suo girone, o no? Doveva arrivare prima, a mio parere doveva arrivare prima, ha sbagliato, è stata l'unica partita stagionale che ha sbagliato, quella che non le ha permesso di arrivare prima, e sarebbe stato estremamente importante. Sinceramente, Francesco, la strategia di arrivare secondo e di beccarsi sulle corna uno squadrone a me non sembrerebbe una grande idea, posso dire, perché insomma lei preferisce il Bayern Monaco o una a caso delle altre seconde? Sì. Che dice? Okay. Magari il Bayern un po' dopo, cioè secondo me quello è stato l'unico vero peccato in questa stagione della Juventus. Possiamo perdere l'inizio, la squadra che si è costruita, il tempo che ci voleva, prendiamo le cose come stanno adesso. La Juventus è andata comunque a giocare a Siviglia in buone condizioni, aveva un obiettivo importante e quello l'ha fallito. È stata l'unica grinza in una stagione fin qui perfetta, in due stagioni fin qui perfette della Juventus. Io Bayern Monaco non vorrei mai, soprattutto agli ottavi di finale. Poi quando vai avanti, quando sei tra le prime otto, chi ti capita, tanto sono tutte forti. Francesco, grazie. Io voglio andare a Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Marta Cagnola! Ciao Carlo, sì, Sanremo e Sanremo, ma che bello, guarda, però posso fare una protesta subito, così, protesta? Tutte quelle che vuoi. Ma perché mi chiami solo quando sono a Sanremo? Chiamami un po' di più da tutti i convocati. Ma quando vuoi, ma tu sei convocata, di default, tu così, per parlare di calciatori belli. Calciatori belli, calciatori brutti. Sì, sì, allenatori affascinanti, così, facciamo dai. Allenatori sfigati. Sì, tutto, sono espertissima. Saluto anche Gabriella Mancini, la Gazzetta dello Sport, che è nello stesso posto, Sanremo. Ciao, ciao a tutti. Sì, sono in sala stampa. Sei in sala stampa. E io, signore, allora, posso farvi sentire una cosa? Sentiamo. Sì. Clementino. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva. Non chiedermi perché. Sono un grande tifoso del Napoli, la Juve ha vinto già tanto. Io voglio bene pure qualcuno che ti fa la Juve, però ragazzi hanno vinto già troppo. Juve, non mi fate vincere noi. E dai, quest'anno cioè tenga Higuain, Kaspak e Vetrin. Facciamo vincere lo scudetto al Napoli e a me mi danno un premio in Sanremo, uno di quelli. Non so, critica, testo, autore, cover. Spero di suonare dopo la partita. Poi la scelta dei conduttori del festival, insomma. Sei pronta a cantarla, Marta? Un giorno all'improvviso. Beh, tengo qua in che spacchi vetrine, ormai la canterò fino a domani. È bellissima. No, ragazzi, è un dramma emotivo, quello di Clementino. Se lo fanno cantare quella sera lì, è un problema, Gabriella. Guarda. Come fa? È molto indeciso, cioè speriamo di entrare su questo palcoscenico, poi vediamo, insomma, avrò sempre un alibi. Se sono andato male perché ero lì a vedere la partita, se sale alla fine. D'altra parte, è fortissimo, era stato anche in Gazzetta quando c'era Maradona, vi ricordate? Come no? Aveva fatto un rap con lui e addirittura Diego aveva fatto una foto con la maglietta di Clementino, quindi felice, felicità per lui. D'altra parte, ieri sera grandi ascolti per il Festival di Sanremo, l'abbiamo sentito anche prima nel giornale radio, ci ha spiegato che in fondo, se la settimana va bene, il sabato si può accettare anche la concorrenza della partitissima dell'anno. È così? Ma sì, Conti scherzava quando ha detto registratevi la partita e guardate il festival, naturalmente. Certo. Però sta andando molto bene perché c'è un po' di tutto, come sempre, in questo festival. D'altra parte, il Festival di Sanremo deve essere nazionale popolare e quindi questo lo è. Voi che fate, ragazze, sabato sera? Televisione nascosta, una sbirciata di qua e di là, che fate? Guarda, è dura, però è chiaro che siamo qua a lavorare per il festival, quindi dobbiamo anche fare il nostro dovere, no Marta? Però, io televisione e Twitter, perché così la partita e le sorti del campionato le seguo su Twitter dalla sala stampa. Io do una sbirciata al sito della Gazzetta, naturalmente, poi però devo twittare sulla serata di Sanremo, quindi non devo distrarmi troppo. In ogni caso, ragazzi, sto seguendo un po' gli artisti, i tifosi, anche Rocco Ante, un altro molto amico di Insigne, Neffa, un altro del Napoli, sono molto i napoletani, e dei Zierjek ce ne sono due juventini, oggi ho cercato di fare un piccolo sondaggio, anche Garco è juventino ma sì, non si è espresso. Sì, ma gli juventini sono un po' più freddi, davvero potrebbe essere l'anno del Napoli anche a Sanremo, potrebbe anche succedere Sanremo. Questo, È muy caliente in questo periodo, muy sì, caliente. Sono tanti napoletani. Muy caliente, e prevedo molte televisioni accese, molti telefonini in funzione, in platea, almeno fino alle 10:30. Sì, è anche dietro le quinte dell'Ares, sicuro. Anche Rocco Ante era molto attento. Com'è andato il nostro Ruggeri, Marta? È andato benissimo Rouge, perché poi sulla carta dicevano ma Ruggeri un vecchio leone, un classico magari, è un po' così, gli altri sono più giovani, più freschi, ma quando mai un rock pazzesco che ha spaccato non è a rischio eliminazione, quindi è andata benissimo. E devo dire che secondo me uno di quelli, vedo anche sui social, che sono piaciuti di più, perché il pezzo è un gran pezzo, io già lo canto da settimane a memoria, sì, lo adoro, è un pezzo, sai cosa c'è? Un bel pezzo alla Ruggeri di quelli classici, sì, di quelli prima maniera, anche la carica, sì, prima sì, maniera, è vero. Anche se ho letto prima un messaggio cattivissimo, essendo interista arriva quinto o sesto. L'autore del messaggio era ignoto, non si è firmato, però io questo messaggio l'ho letto. Hashtag Amalo, sì. Hashtag Amalo. Grazie ragazze, buon divertimento. Grazie. Ciao Marta, ciao. Cagnola, Gabriella Mancini. Ma la mettiamo, Turrini? Pronto, possiamo partire dal traffico, maestro. Ma dove sei? Sì, dal traffico in cui ti sei intrappolato, dove sei finito? No, hai fatto il giro del mondo. In onda, perché proprio hai sembrava che queste tue vacanze post-natalizie fossero. Le tue vacanze post-natalizie. Volevo però dire che verso Imperia effettivamente c'è una grande coda. Sono tutti gli interisti che si stanno recando al Festival di Sanremo, seconda serata, dove avremo tutti il piacere, io stesso sono un cuore nerazzurro, di seguire l'esibizione del nostro mister Roberto Mancini, che come direbbe Sarri farà coppia con Elton John e faranno una cover dei Pandemonium. Lei, maestro Genta, se ne ricordi Pandemonium? Confesso, al momento, così su due piedi e quattro benissimo rotelle, no. Andavano a Sanremo quando già si andava l'interista Ruggeri, dato che parlavate di lui poco fa, e fecero un pezzo memorabile che potrebbe essere il nuovo inno della beneamata, che sarà rifatto da Mancini, Simelton John, che si intitolava Tu fai schifo sempre, dei Pandemonium. Ma giuro, veramente, veramente, andarono anche in finale, capito? C'era pure Ruggeri, come sta maestro Getta? Tutto bene? Non c'è male, non c'è male, lei? Beh, Beh, insomma, abbiamo avuto questo recente periodo noi interisti abbastanza intenso. Ci siamo un pochino, come si suol dire, smarriti, ma si può sempre lottare, come Ruggeri al Festival per il sesto posto. Ma immagino che lei mi voglia sfroculiare su altre cose. Anche. Hai immaginato bene. Domani sera, il tardo pomeriggio, traffico, molte code tra Varazze e il Festival di Sanremo. Cioè, sarà un sacco di gente che va domani sera per vedere Pardo. C'è Pardo al Festival di Sanremo che canta insieme ad Aldo Biscardi un remake di Sei forte papà, perché voi sapete che Pardo, come Hamilton, a proposito del mito di Senna, praticamente è il figlioccio di Aldo Biscardi, no? Cioè, tutta la carriera di Pardo cominciò perché un bambino bussò alle porte in processo del lunedì e disse: ma io vorrei essere come te, eccetera, eccetera, eccetera, e ce l'ha fatta grazie anche al maestro Genta. Complimenti, caro Genta, mi dica, mi chieda. Complimenti a lei. Senta, ma questa signorina che ruba il posto, povero Sorensen, grazie alla sua avvenenza, sono storie che non eravamo abituati a sentire. Beh, allora, nel mondo della Formula 1. Una cosa. La signorina Giorda, sì, come me la valuta Tester, lei la signorina Tester Giorda? Non fisicamente Lotus, non, insomma. Che adesso si chiama Renault. Però voglio dirle una cosa, caro Genta, questo pilota che si lamenta perché viene preferita la Carmen che al simulatore sarebbe di appena 12 secondi al giro più lenta, no? Solo, praticamente una sciocchezza, volante, che vuoi che sia. Scusi, questa al volante come Felipe Melo in mezzo al campo dell'Inter, no? Elogio della lentezza. Però voglio dire, questo pilota che si lamenta, ma bastava che leggesse Giorgio Bocca, il grande Giorgio Bocca, purtroppo non c'è più, che scrisse una volta, 30 anni fa, una frase, la dico nel dialetto a lei caro, io forse non lo pronuncio benissimo, che diceva: tira più un pel da pota che cent caval da trota. Se vuole tradurre lei. Devo tradurre, allora, tira di più un... Dunque, devo cercare delle parafrasi vuole, che mi verrebbe. Se vuole chiamiamo Sarri, che è un gentiluomo che ci mette un attimo, tira più un pelo di figa che un plotone di cavalli. Insomma, questo collaudatore lo doveva sapere anche lui, che insomma l'avvenenza della signorina, poi in un mondo come quello della Formula 1, capito? Bulli e pupe, tutto il resto... Che vogliamo fare? Quindi il povero Sorensen è semplicemente uno sprovveduto. Ma no, ma insomma adesso bisogna, guarda, per far capire bene a chi è in coda sulla Piero Cormano, in Formula 1, tolte le 4-5 grandi scuderie che pagano i piloti che vogliono mettere nell'abitacolo del loro monoposto, gli altri team, ma da sempre, fanno correre chi si presenta con la valigia, con i soldi degli sponsor. Li chiamavano i piloti con la valigia. Allora questa sventurata collaudatrice avrà una valigia molto copiente, non le fanno guidare la macchina perché poi mica sono scemi, la fanno stare al simulatore e funziona così. Vogliamo dire che non è giusto e che i valori dello sport, dell'etica e quant'altro... Però francamente non è una novità. Guarda, io mi ricordo, ti parlo dell'era di Sciumi, no? C'era un certo Pedro Diniz, ne hai memoria? Come no, ricordo bene. Benissimo, Diniz correva in Formula 1 quando il nostro comune amico Enrico Ruggeri era già anziano ed era già andato 18 volte al Festival di Sanremo, no? Sto Diniz aveva posto anche su squadre più che decorose, perché suo padre era il concessionario Parmalat, prima del mega scandalo di Canzi, in tutto il Sud America. Quindi due soldini, cioè, allora, due soldini li aveva. Poteva correre i gran premi e magari il ragazzo che è in coda adesso sulla Piero Cormano e che era bravissimo, non aveva alle spalle neanche il lattaio del suo quartiere, doveva guardare le corse in televisione. Mette tristezza dirlo, ma è così. Per questo io amo moltissimo Kimi Raikkonen. Perché non ha avuto dietro neanche uno sponsor alla vodka, hai capito? Si è fermato con la sola forza del suo pensiero, talento. Del suo pensiero. Sì, esattamente. Senti, ma come cresce la bambina rossa? Che allora, notizie guarda, hai di corridoio? Ci siamo qua, la prossima settimana forse mi dovrai richiamare, perché ci sarà la presentazione ufficiale della vettura. È una macchina il 21 che, si va in pista. Eh? e il 21 si va in pista. Sì, allora il programma la Ferrari debutterà un giorno prima degli avversari a Barcellona la domenica 21, perché sfruttando astutamente, con uno stratagemma degno di un Richelieu, avrebbe cantato Andrea Mingardi, sfruttando un buco del regolamento, Iron Mauri arriva bene, ha ottenuto che la Ferrari la domenica 21 faccia il cosiddetto filming day, cioè hanno 100 km a disposizione per girare un filmato promozionale, lo faccia sulla stessa pista di Barcellona, dove da lunedì 22 iniziano gli attesissimi test pre-campionato, che sono 8 giorni, 2 sessioni di 4 giorni, e lì ci saranno tutti i team, tutti con le macchine nuove, tranne credo una scuderia di infimo livello, e lì capiremo qualcosa. Certo, non è il Gran Premio, però di solito magari non il primo giorno, non il 22, sì, ma alla fine della sessione. Ma dimmi una cosa, io voglio psicanalizzarti più che sapere come la macchina. No, voglio sapere. Perché credevo che non andassi più in onda, ma non chiamavi più, dicevo, ma gente, forse è passata la BBC. Oh yeah. O è rimasto imbottigliato anche lui sulla Perocormano. Ho fatto un lungo periodo sulla Perocormano, ti confesso. È vero, anche questo. No, io volevo psicanalizzarti. Cioè, sì, le tue sensazioni quali sono? La Formula 1? Sì, Mercedes Ferrari. Qual è la distanza? Ma allora, sensazioni, tutto, quello tutto, che senti nelle ossa. Sì. Allora, io credo che a Maranello abbiano fatto uno sforzo enorme durante l'inverno. Mi aspetto una macchina rossa e anche un po' bianca, perché vedrete che cromaticamente ci sarà qualche sorpresa. Una macchina sicuramente più veloce dell'anno scorso, hanno rifatto il progetto, perché la sospensione anteriore è completamente ribaltata, praticamente hanno copiato quella della Mercedes, hanno studiato il lato B di Belen, perché il retrotreno della Ferrari è strettissimo, è una cosa, si noterà a occhio nudo proprio che c'è una revisione filosofica dell'impostazione della vettura. E la famigerata, il famoso Power Unit, è stato totalmente rifatto il basamento del motore. Sì. Ora, io penso che queste cose garantiranno un miglioramento, quindi me li aspetto vicini, molto vicini alle frecce d'argento. Poi dopo, se tu mi dici, ma tu te la senti di dire che vinceranno, io ti rispondo, io non sono Marchionne, non sono Sergione Conceição Marchionne, che ha detto per tutto l'inverno che dal primo Gran Premio ribastoneremo, perché penso che se uno guarda come si è conclusa la passata stagione, la Mercedes negli ultimi Gran Premi faceva sempre primo e secondo in qualifica, primo e secondo all'arrivo, le regole tecniche rimangono identiche, vuol dire che partono favoriti loro, no? La logica è quella. Però ecco, io in una Ferrari che possa lottare per il campionato ci credo, questo sì, e spero tanto di non essere smentito, e lasciami anche dire, salutando Barisoni e Focus Economia, io spero una Ferrari in pista che vada meglio della Ferrari in borsa, perché se voi non lo potete fare perché siete l'organo di Confindustria, andate a vedere quanto quota il cavallino adesso a Wall Street, a Piazza Affari, rispetto al debutto, ragazzi, viene qualche dubbio, i problemi non sono certo a Maranello, secondo me. Credo che siano un po' tutti a bagno con ecco, i piedi a mollo. Segnalo a Barisoni, all'amico Barisoni, hai capito? Adesso vado da lui, subito, ecco, bravo, saluto, appena finito, te lo saluto caramente. Sì. Lei ha un'ultima cosa, hai visto le foto del nuovo Briatore? Le ho viste, ti devo dire, non lo so, perché prima avevo già visto, forse tu in quel periodo eri fermo sulla Perocormano, Simona Izzo da Bruno Vespa, no? Avevi visto che sotto quella polemica, che era riconoscibile, il lifting, non lo so, il bisturi, la dieta. Io sinceramente questa nuova immagine di Flavio non l'ho ancora messa a fuoco bene, quando proprio mi è apparsa d'istantanea. Ho anche sospettato che la Gregoraci avesse fatto la foto con, sbagliando la messa a fuoco dello smartphone, hai capito? Perché non sembrava lui, sono rimasto male. Tu quando vedi Briatore, sei abituato a vedere, no? Sì. Quella faccia abbronzatissima da auto metallizzata, nera, no? Mm-hmm. Color carbonizzato, che è un'ostentazione di benessere, no? Certo. E, ma ha detto che ha fatto la dieta del cerotto, cioè cerotto sì, davanti alla bocca e non ha mangiato nulla. Questi, sai, caro Geta, te lo devo dire, tu sei rimasto una delle poche garanzie in questa... In questa Italia ci stanno proprio crollando i fondamentali, capito? Cioè persino Briatore ci smagrisce a vista d'occhio, non lo riconosciamo più, no? Cioè tu vedi Briatore adesso per strada, sei tentato di allungargli un euro, come se fosse un mendicante, ma ti rendi conto? Cioè prima lo vedi, il bigliorer, bello tronfio così, o sulla barca lì, adesso incontri un viatore per strada, gli tiri dietro una monetina. Eh sì. Insomma, ma cosa sta capitando in questo paese tra un bail-in e la stepchild adoption? Ma voglio dire, ma parlate in italiano, no? Non lo sarebbe tanto lei. Ci comprano i cinesi, tu ridi. Ma lì ci penserà Toira adesso dall'Indonesia, vendere ai cinesi, non lo so, ma... ci comprano però, tutti i cinesi. Gente, tu che hai un grandissimo seguito popolare, lancia un appello. Quello che parlate vuoi. In italiano. A sentir dire bail-in, stepchild adoption, Jobs Act, no? Sì. Ma la gente si guarda attorno, è basita, no? Cioè, no, ma poi, più che altro la gente si tocca in tasca e dice... Gli lancia una monetina perché dice... Avercela, la gente dice avercela la monetina, perché la gente sente quei paroloni lì, poi si tocca in tasca, non trova neanche un soldino di rame e allora poi dice, vabbè, allora... Allora stanno crollando i fondamentali, come dice tu. Sì, uno vede Briatore, pensa alla borsa e dice qui è finito tutto, è finito. Il nuovo Briatore. E confidiamo nella Ferrari, cosa vuoi che ti dica? È nella grande riscossa dell'Inter che Toira è in arrivo da Giacarta e ci siamo e ripartiremo. Sì, sì. E ripartiremo con Roberto Mancini, che però guai a offenderlo, che è permalosissimo. Ho visto, ho sentito. Sì, non lascio stare il signor Mancini, che ha i nervi a fior di pelle. Grazie Leo, a presto. Maestro, non sparire. Salutami non tutti, sparire. Un abbraccio. Ti saluto tutti, grazie Leo Turrini, ti saluto tutti, a cominciare da Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Binde in redazione e a tutti gli ascoltatori e i convocati do mondo. Sentiamo domani alle 2, ciao. Signori, alla prossima.